Allora, io ho messo su un wiki space, che è una sorta di spazio in cui ho caricato dei testi, tra cui Rizoma e la prefazione all'edizione italiana di Mille Piani. E può essere interessante se ovviamente lo partecipiamo a questo spazio, perché permette una lettura più collettiva, più condivisa, cioè io leggo, annoto, metto le mie note, metto le mie osservazioni, link, rimandi. Ovviamente vedo anche i link che mettono altre persone, commenti, domande. Quindi diciamo è un testo che vive anche no, in questa dimensione un po' molteplice dei rimandi, delle referenze multiple. Può essere una modalità per avvicinarci anche senza doverlo leggere completamente tutto, anche scorrendo insomma, i commenti per prepararci all'incontro. Può essere diciamo, un'operazione, come dire, di preparazione. Poi magari nella mia, cioè io sono interessato a Rizoma, poi magari lo diciamo, però più per quello che può produrre, no? Come discorso, più che per una lettura, cioè che sicuramente è fondamentale di, no? Di comprensione, un po' di analisi del testo, per quello che può significare, come diciamo, cosa ci può dire oggi Rizoma, che cosa possiamo farne oggi di un concetto così forte, ma così anche diciamo collocato in un contesto preciso, che però secondo me può ancora funzionare. E quindi noi come ce lo possiamo giocare? E forse quello può essere anche un altro luogo di scambio di osservazioni, di, non uso il termine proliferazione, però sì, era questo. Anche perché un po' guardando in internet, lo introduco io, faccio. Vai. Intorno a questo concetto che è, Mille Piani, l'ha detto lui più di una volta, è un testo diciamo a struttura particolarmente variabile, nel senso che appunto è composto di piani, non di capitoli per scelta, quindi è leggibile senza un ordine prestabilito, però Rizoma costituisce, come dire, anche per dichiarazione degli autori, l'introduzione necessaria, perché un po' inquadra metodologicamente sia l'esercizio di scrittura, che è fondamentale in tutta Mille Piani, sia un po' alcuni presupposti concettuali che rappresentano proprio delle invenzioni concettuali che loro introducono. Infatti forse lo scarto per l'antidi proprio perché qui abbiamo diciamo il disegno di una, non sarebbe corretto usare paradigma, però di nuove figure, di nuovi concetti che no, per la prima volta compaiono, quello di per la prima volta, comunque per la prima volta così di, diciamo, ben delineati, quello di Rizoma in particolare. Piano di consistenza, beh, lo trovavamo, c'era anche nell'Antiedipo, però qui assume proprio un'altra. Piano di consistenza? Sì. In Antiedipo? C'è qualcosa, diciamo, nella. Però appunto si accenna soltanto, non si sviluppa. Invece Mille Piani ha proprio, diciamo, la sua. Tutti sanno cos'è un piano di consistenza? No, lo stai imparando. Beh, però magari quello diciamo un piano. Sì. No, io è più un'osservazione metodologica, però ne avevo già parlato con Tommaso e io trovavo interessante la possibilità di leggere qualche passaggio, anche qualche frase, e poi commentarla seriamente tutti insieme, visto che questo è il testo su cui poi dovremmo lavorare. Riflettendoci su in tutti i sensi, cioè possibili, anche in modo impressionistico, più tecnico e così via. Perché sì, cioè, giusto per toccare un po' questa materia, perché sennò mi sembra un po'. Cioè, ho l'impressione che ora non per criticare, però quando uno dice tutti sanno che cos'è un piano di consistenza e poi dopo voi ce lo spiegate o qualcuno che sa già lo spiega, non è come trarlo dal libro, non è proprio la stessa cosa, giusto? Quindi cioè voglio dire delle conoscenze più stabili come le vostre possono essere utili per stabilizzare quella che può essere la dispersione nel commento di alcuni pezzi, cioè quando proprio uno si perde non sa più e ha bisogno di invece di creare un principio di tenuta o di mettere insieme quelle che erano delle osservazioni, perché voglio dire, sì, ok, vabbè, questo è un po' il sospetto che ho anche in mille, leggendo Mille piani, per quel po' che conosco di questo libro, però sì, cioè, sì, va bene, ok, cioè, io sento anche dei grossi, mi sembra che ritorni molto l'idea della dispersione, l'affermazione delle vie d'uscita, probabilmente per motivi anche politici, non lo so. Però dall'altra io non so, anche leggendo una parte di Rizoma, ora mi mancano 10 pagine, sì, cioè è vero che appunto uno deve un attimo percorrere, no, le linee di fuga e così via, però dall'altra deve anche in qualche modo quagliare a un certo punto, no? Cioè un po' il problema che si è presentato anche qui, in questo gruppo. Cioè a un certo punto sì, è vero che uno comincia a percorrere come dire, questa sorta di come chiamarlo? Il ragionamento, no? Deragionamento. Deterritorializzazione. Vabbè. Però è anche vero che ho l'impressione che molte persone sono venute qui per invece avere delle territorializzazioni. E quindi fermo così. Beh, intanto da una dritta, piano di consistenza. Ne parlano, si capisce molto bene, secondo me, da pagina 394 fino, vabbè, da 394 e seguenti, fino 400-401. Diciamo 394-404. Ecco. Così a occhio. Cioè sul piano, sul ritornello 1837. Il problema della consistenza riguarda il modo in cui lui si... questo. Sì. Sì, sì. A me piace molto l'idea che dici tu di partire da. Anche perché io non riesco a leggere in ordine, per esempio, cioè. Se devo leggere il Rizoma, penso perché ma vado al capitolo dopo, e poi se devo leggere il capitolo dopo, poi si devo leggere il capitolo. E quindi magari leggere un pezzo e andare avanti per intuizioni e concatenamenti, magari ci porta a pensare qualche cosa. Così anche se uno non ha letto e si sente che ha paura di dire un'ennesima cazzata, magari leggi un pezzo che ti tira l'attenzione e diciamo qualcosa lì. Ah, proprio leggere va bene, sì. Oppure vi posso dire che cosa ho sottolineato anche che forse è ancora più ed interessante, chi si pensa potrebbe servire a quello. Io vedo, ah, beh, sì. Cioè, no. sì beh sì, non ricordo chi è che vabbè, comunque insomma un altro discorso sul valore delle sottolineature, però Sì, io posso leggervi magari i punti per me più problematici, perché poi ci sono sottolineature, diciamo, che sono più strutturanti, e altre che invece sono, restano invece più delle incognite. Però, ad esempio, su questo concetto che è espresso a pagina 48, anzi, su questo passaggio in cui si parla del corpo senza organi, a me piacerebbe un po' ragionare su queste righe. Io ho sottolineato concatenamento machimico è volto verso gli strati che fanno una specie di organismo, una totalità significante o una determinazione attribuibile a un soggetto, ma è volto anche verso un corpo senza organi che continua a disfare l'organismo, a far passare e circolare particelle asignificanti, intensità pure, e ad attribuirsi i soggetti ai quali non lascia più che un nome come traccia di un'intensità. Guardi a me. Fantastico, abbiamo e io posso. Non so, sì. Dunque, io l'ho sottolineato perché compare corpo senza organi. Compare corpo senza organi. Però non dico più niente. Prego. Sì, no, io non sono molto brava a parlare, quindi lascerò subito. Però, se non sbaglio, prende il concetto di corpo senza organi da Artaud, che è stato uno dei pionieri del teatro contemporaneo negli anni 30, in concettualizzare il corpo senza organi. Perché ho tutto confuso. Sì, nota bibliografica, corpo senza organi d'Arto, per farla finita col giudizio di Dio, trasmissione radiofonica di anni 20-30, appunto. No, però cosa? Perfetto. Sì, mi sembra dopo il manicomio. Quello ti manicomio, come si chiama? Mi sa che c'era già stato, per me, e poi che non fu trasmessa poi, in realtà, la trasmissione. Quello di denunce e tentonesca. Su, praticamente su fuori, su titolo. Sì. Ok. Vabbè, l'altra cosa, mi è venuta un'altra cosa metodologica, e cioè che è vero che chi pone o chi legge il pezzo può essere anche quello che dirige o, diciamo, dirige le domande, volta a volta. Mm-hmm. Questa è anche una cosa che potrebbe essere interessante, non so... e che può essere anche contestato nella sua direzione. Però dunque, quindi, intanto... Sì, io vorrei fare tra l'altro una piccolissima parentesi, nel senso che sentendovi durante le registrazioni anche adesso, io lavoro con una... la mia collega, che è una semiotica, lavora all'Università di Siena, e... lavoriamo insieme nella ricerca coreografica, io sono danzo, diciamo, e diciamo nella scena contemporanea performativa il pensiero deleuziano è stato fondamentale, e magari, ecco, potrebbe essere interessante non so, un prossimo incontro con lei, che magari parla dell'influenza di Mille Piani rispetto alla scena, quindi anche con tutta la nozione del corpo senza organi, anche nella pratica. Adesso poi magari, ecco, ci penso e vi dico meglio, non so se vi può interessare. Su questo volevo aggiungere che la danza, non solo la danza, c'è cioè l'influenza di Mille Piani in particolare sulle esperienze artistiche dagli anni 80 in poi. È in particolare 90, cioè quindi anche a Bologna, Link, certo. Tutta Silvia Fanti, tutte le persone che erano attorno al Link che è stato un centro occupato importantissimo, cioè Bologna è stata il centro culturale italiano negli anni 90 e attorno a lì una figura anche come appunto Silvia Fante, che è una curatrice bravissima, e tutta una scena, quindi tutta la scena degli anni 90 italiana che adesso attualmente è stanno cercando di farla fuori in tutti i modi, cioè una scena performativa di pensiero, il mercato della danza, del teatro sta cercando di eliminarla in tutti i modi, mentre in Francia magari è successo il contrario, che è stata riconosciuta. In Italia appunto gruppi come Kim Caleri, MK, Cristina Rizzo e altri gruppi hanno lavorato tantissimo su Mille Piani. Kim Caleri insomma a Firenze, ok, esiste una pubblicazione che si chiama Deleuze e Guattari e la musica elettronica, c'è un'etichetta tedesca quindi diciamo un po' le ramificazioni sono tante. A Macao adesso anche stanno facendo tutto un discorso su Mille Piani. Perché? No, volevo sapere il corpo senza organi. Cioè, tu ne sai qualche cosa? Sì, ma non sono brava a parlare, cioè mi dovrei ristudiare, rimettermi a. Ma chi preferisco. Ah, ok, no, se preferisci, fare. Però insomma, almeno. Cioè, io parlo malissimo, cioè insomma dipende, certi cioè, giorni parlo bene, certi giorni parlo male. oggi, boh, non lo so, oggi penso una via di mezzo. Però no, ma anche così ero curioso di sapere anche così vagamente cioè che cosa significa per te il corpo senza organi. Da lì un po' ci pensi, intanto vogliamo fare un giro di opinioni sul corpo senza organi? Oppure ci fa vedere qualcosa, non lo so, fotografie, un passo. No, non è tra l'altro c'è un libro di invece di Žižek che si chiama Organi senza corpo, un dialogo con Gilles Deleuze, che invece è un po' ribalta come Žižek sappiamo. E, o Zizek, come lo dico. diciamo tutti. Oggi ascolto. La mia amica Serva ha detto che si dice Žižek. Allora, l'ha detto lei, mi fido poi. Io dico che Machiavelli, Machiavelli. E, no, e voglio, cioè, aggiungo tutta l'influenza di Mille Piani, Rizzoma, Deleuze e Guattari nel cyberpunk, nella tutta diciamo, la discussione sulla rete rizomatica, appunto, che l'idea di rete rizomatica oppure no, che è per esempio lo stesso Bifo ha attraversato parecchio con tutta l'esperienza nel Comi, no? Cioè, anni 90 anche questo, primi anni 90-2000. Quindi diciamo un'eredità notevole, più o meno fedele al concetto originale. Però voglio dire, questa fedeltà o fedeltà può non essere poi così significativa, anche a detta diciamo, degli stessi autori. Però io vorrei ritornare su facciamo un giro se volete, sì, posso anche rileggere il pezzo, cioè perché voglio dire non so, c'hai qualcosa da dire a te? Io? Ma perché l'ho sottolineato? Ma sì, beh, in realtà per curiosità mia, perché il corpo senza organi che appare più volte anche nei discorsi in ambito semiotico. Io in modo molto intimo e non so quanto giusto dal punto di vista filologico cioè per me come semiotico il corpo senza organi è il senso ed è il senso indifferenziato che, come dire, costituisce quella dimensione che, come dire, giustifica, rende conto delle traduzioni delle trasformazioni di significazione. Il corpo senza organi è quel piano di continuità sul quale si stagliano le discontinuità. È ciò che permette, ora cerco di riutilizzare i concetti, ciò che permette le deterritorializzazioni, mi pare di aver capito, è il corpo senza organi. Tanto che il modello del rizoma, perché secondo me è un modello, è una rappresentazione di questo corpo senza organi. E qui mi fermo, non voglio dire di più. Voi cosa ne pensate? Beh, io sono molto d'accordo. Allora, secondo me il corpo senza organi, vabbè, è uno dei concetti più problematici in assoluto. E anche perché, che io sappia, però io non ho saputo, chiaramente non è mai chiaramente specificato. Cioè, qui c'è un piano sul corpo senza organi nel quale, secondo me, non si capisce che cosa intendono per corpo senza organi. Stessa cosa, anti-Edipo, si parla di corpo senza organi sempre, e Artaud, quando lo tira fuori, cioè, a un certo punto c'è questo lungo elenco, dice niente questo, niente questo, niente quest'altro, elencando vari organi, un corpo senza organi. Quindi cos'è, boh? Così. La mia interpretazione più anti-edipica che millepianica è che sia appunto questa materia non formata. Materia non formata in senso proprio sossuriano, jenslewiano, eccetera. Cioè, ancora c'è il cono lì, praticamente dove c'è la V e c'è il cerchio, è il virtuale non differenziato. E quindi questo eccesso di materia che non ha una forma. Dopodiché voglio dire una cosa che secondo me in generale, cioè per la mia esperienza insomma, io vabbè, mi sono avvicinato alla semiotica per caso, mi ha molto interessato e ho scoperto che, almeno parlando di Bologna per esempio, Deleuze è capito molto meglio dai semiotici che dai filosofi in generale. E quindi, insomma, secondo me l'interpretazione che da Luca di cultura semiotica di corpo senza organi coglie bene e è proprio da accostare a questo, secondo me. Anche per questo ha insistito un po' sullo strutturalismo, sulla macchina, perché poi appunto, cioè come la struttura è un modello, la macchina è un qualcosa che interviene sul modello e il rizoma è un altro modello. E alla fine il rizoma non è un qualcosa che si tocca, è un apparato metalinguistico che serve a comprendere una serie di fenomeni, una serie di eventi che accadono. Come li classifichi, come formi un piano di consistenza di queste cose in concatenamenti rizomatici, cioè in serie che si collegano rizomaticamente, che significa, cioè, beh, corpo senza organi. Corpo senza organi? Vi leggo Artaud. Vai. Un pezzettino. Allora, poi dice, però, il titolo è in francese, ma è da quel pezzettino che è mia. Dice, l'uomo è malato perché è malfatto. Bisogna decidersi a metterlo a nudo per raschiargli via quell'animaluculo che gli prude mortalmente. Dio e con Dio i suoi organi, e legatemi se volete, ma non c'è nulla di più inutile di un organo, quando gli avrete fatto un corpo senza organi, lo avrete allora liberato da tutti i suoi automatismi e reso alla sua autentica libertà. Allora gli insegnerete di nuovo a danzare all'inverso, come nel delirio delle balere, e l'inverso sarà il suo autentico luogo. Quindi un processo proprio di spersonalizzazione divina. Disfare l'organismo, dice. Ma io vi posso fare eventualmente un piccolo esempio, che è una pratica che io ho fatto insieme alla sua coreografa Cristina Rizzo. Ci trovavamo in una casa che ha uno spazio abbastanza grande, ed eravamo un gruppo, abbiamo fatto questa cosa per 6 mesi, abbiamo attraversato una pratica che si chiama Body Mind Centering. E il Body Mind Centering è stato inventato da questa donna americana, che propone delle improvvisazioni a partire da una mappatura anatomica. Quindi questo per esempio per la danza ci, come dire, ci si muove in un certo modo, ci sono delle tecniche che danno per scontato che il corpo sia una questione biomeccanica, che sia come dire, un insieme di ossa e muscoli che si muovono nello spazio. Bene, non è solo il corpo, non è evidentemente solo questo. Michel Bernard, un filosofo francese, parla, dice di sostituire il termine corpo con corporeità, eccetera, eccetera. Noi con queste improvvisazioni, per esempio, a ogni incontro ci muovevamo a partire, che ne so, dal sistema linfatico. Quindi c'era tutta una pratica e, che durava anche 2 o 3 ore, e arrivavi a muoverti realmente a partire dal sistema linfatico, piuttosto che dal fegato, piuttosto che dal sistema parasimpatico. E questa cosa, cioè, non era, cioè, era attuale, nel senso che poi si creavano per ogni tipologia di sistema esplorato, che poi avveniva in una condivisione, eravamo in 6 o 7 e praticavamo questa cosa, portava fuori delle qualità di movimento assolutamente specifiche, totalmente diverse, cioè la qualità del peso degli organi aveva un tipo di pesantezza, un tipo di movimento che era totalmente diverso dal sistema linfatico, che invece portava una chiarezza vettoriale, una leggerezza. E in questo senso, secondo me, si può usare anche. Poi lei addirittura, a quel che ho capito, in quel caso lì tu ti servi del corpo senza organi per riorganizzarlo. Un'invenzione. Per reinventare, per riorganizzarlo, no? Sì. Cioè, quindi c'è una sorta di denudamento funzionale, sì, cioè di funzioni proprio. Lei ha detto una cosa fighissima, sì, nel senso. Cioè, questa cosa qui che si è inventata la tipa, sì, americana, cioè praticamente, per come l'ho capita io, come dire, togli un principio organizzativo del corpo, cioè perché il corpo senza organi? Perché il corpo sono organi formati e collegati tutti insieme, quindi alla somma degli organi, e no? Cioè, quella è una visione del corpo. Però appunto, come diceva lei, si parte da qualsiasi principio per sviluppare qualsiasi tipo di forma a partire proprio da un'esistenza che esiste, quindi un'esistenza non formata che poi diviene nelle varie forme a seconda. E questo è fondamentale anche rispetto alla scena, alla rappresentazione, perché la presenza non è una cosa, cioè qualcosa che ti puoi in scena, che sei in un certo senso obbligato a reinventarti continuamente. Ed era anche un po' il dramma di Artaud. Appunto, dire che l'essere umano non è solo quel sistema biomeccanico che rappresenta. Ma infatti io posso portare un'altra esperienza. Io ho una famiglia di teatranti, i miei hanno una compagnia teatrale che fanno teatro ragazzi, e se non so se lo sapete, ma negli anni diciamo 70-80 molta della ricerca del teatro di ricerca, cioè grandi scoperte proprio nella ricerca artistica ed estetica in Italia e anche in Francia, per quel che ne so, sono avvenute all'interno del teatro ragazzi. quel teatro che qualcuno chiama per bambini, ma che in quel periodo, per fargli capire un po' lo spirito, era più pensato come un teatro con i bambini. E vedendo anche come lavorano i miei, quello che tu dici, e forse questo interesserà Tommaso, i bambini rappresentano la porta verso il corpo senza organi, proprio perché non hanno, hanno diciamo delle strutture che in quanto divergenti, diverse, differentemente strutturate, perché non sono corpo senza organi, cioè il corpo senza organi, per quel che ho capito, è abbastanza invisibile, insomma, è nello scarto però, cioè è nel riconoscere, nel percorrere quel viaggio che separa, no, il mondo adulto da quello infantile. È lì che, come dire, quelle strutture che appunto del mondo adulto che in qualche modo limitano le possibilità di ricerca vengono finalmente smontate e rimontate sotto un altro punto di vista. Tant'è vero che, insomma, cioè, il teatro di ricerca in generale è un teatro di reazione a tutto, insomma, alle forme più classiche, insomma, come è avvenuto anche in altri campi dell'arte. E quindi, insomma, questo, cioè, il problema di liberarsi e di percorrere o lasciarsi andare nel corpo senza organi per poi sorprendersi in qualche altro luogo, in qualche altro territorio, è una pratica molto, molto, insomma, molto diffusa in quel campo di ricerca ed è anche molto interessante come dimensione. Io lavoro così, cioè anche come artista, ma anche all'università, cioè quando devo scrivere delle tesine, cioè, ma a parte quello è l'esercizio che mi viene richiesto anche dal mio professore, però, cioè, per fare analisi semiotica bisogna assolutamente dimenticarsi di tutto, persino degli strumenti semiotici, cioè. Sono stato a fare una ricerca etnosemiotica all'Arte Fiera questo weekend e sono andato lì facendo lo sforzo di farmi agganciare, trascinare da delle situazioni. Tant'è vero, mi vedrete, c'è, cioè, un antropologo che compare nelle foto non si è mai visto, ma io compaio anche nelle foto, diciamo, di Arte Fiera, perché teoricamente non si dovrebbe vedere, perché a un certo punto mi hanno agganciato. E allora lì fai, no, per dire, quindi, diciamo, questo fa parte dell'attività, ad esempio, semiotica, analitica, cioè quella di percorrere, lasciarsi andare ai flussi e poi dopo riordinare, però c'è tutta una parte di abbandono. Altra nota, nell'Antiedipo si parla di corpo pieno della terra, per esempio, corpo senza organi alla terra, che viene strutturata una volta che viene geometrizzata per essere coltivata. Quindi la coltivazione assegna dei confini, proprietà privata, eccetera, e lì perde il corpo senza organi, cioè la materia indifferenziata senza identità, perché assegni dei confini e limiti. C'è anche un rimando al passo che leggevi te col nome. Il nome può essere un piano di consistenza che contrae energie non formate, materie non formate del corpo senza organi. La scena vuota è un corpo senza organi. In quella scena ci può essere di tutto. Poi entra un bambino, barra un adulto, un'adulta, non so, poni già una differenza, cioè poni una dimensione attuale in un piano di coesistenza virtuale che toglie tutto il resto. Infatti c'è questo testo del libro su Kincaleri, che è tutto il lavoro degli anni 90, che si chiama La scena esausta, nel senso che il tentativo allora era quello di esaurire, dicevano proprio di esaurire la scena, quindi c'è la scena vuota, visto che non lo è, la esauriamo. È anche una nozione, secondo me, e questo è un tema, fra l'altro, che vorrei buttare lì ed è una bomba, lo deciderete voi, però è una nozione anti-intellettualista. Cioè riconoscere, cioè il bisogno di affermare l'esistenza del corpo senza organi è un modo, mi sembra, per dissolvere quelle macchine, ora macchine non so se lo uso bene, diciamo strutture, che sono quelle della conoscenza con la C maiuscola. Come? Stavo pensando. E che è appunto quello che poi cercano di fare. Come ti chiami tu? Paola. Anche nella sua pratica è quella di sottrarre agli intellettualismi, e cioè al fatto che, poiché questi intellettualismi, io voglio dire il fatto che di diritto, come dire, una struttura di conoscenza è superiore alle altre a prescindere, quando invece ve ne sono altre, come appunto quella del mondo infantile o quella del non conosco la danza, però che sono pur sempre delle strutture di organizzazione, delle reti che organizza il mondo, ma che però vengono, come dire, nascoste o addirittura dette inesistenti da un pensiero diciamo prevalente. Quindi affermare il corpo senza organi significa anche porre un piano di dissoluzione di questo pensiero qua. E questo però è una bomba, perché io la butto lì, perché invece io lo trovo molto intellettualista adesso. Perché se non conosci, non capisci. E questo è qualche cosa che stride, che è una contraddizione, secondo me. La dico solo per quello che ho letto, però per me la nozione di corpo senza organi è in contraddizione con il resto. Vabbè, uccidetemi, vi prego. Però io non ho mai ucciso un uomo. Ce l'ho fatto via. Faticoso. Immagino. Sì, vabbè, su questo, nel senso, secondo me non bisogna cercare in Deleuze e Guattari, cioè, oddio, in Deleuze, in Guattari magari un po' sì, non bisogna cercare in Deleuze un punto d'arrivo. Cioè, secondo me è un filosofo straordinariamente descrittivo, e termini come corpo senza organi, molecolare, deterritorializzazione, linea di fuga, schizofrenia, eccetera, che possono sembrare il punto in cui va a parare, cioè l'obiettivo, in realtà, per come la vedo io, però è più che opinabile ovviamente, non è un obiettivo, ma è un modo, una concettualizzazione di qualcosa che avviene. Quindi, nel senso, non c'è un piano coerente, diciamo. Ecco. Tania, devi dire qualcosa? C'è rosso. Butta. No, vabbè, non tanto oggi va così. Sì, no, mi piace per imparare. Io purtroppo non ho avuto il tempo di leggere nulla, perché sono pieno fin qui. Ho letto un riassuntino, però. No. Sì. No, c'è questo libro di Guareschi, devo dire, beh, cioè non è molto. Però c'è sono due paginette sul rizoma che un po' ripercorrono un po' tutto il. Il Guareschi che ci ascolta, Esatto. Sappi. Cazzo, quindi ecco, prendo le mie nozioni da lì e dalle cose che ho ascoltato adesso, però. Cioè, mi sembra che poi alla fine si dica sempre la stessa cosa con parole diverse, mi sembra, poi forse banalizzo. Cioè, questo si è inventato un modo per, appunto, far fuori le strutture, far fuori l'identità, però solo questo, cioè almeno stando a quello che ci siamo detti adesso, mi sembra che sia un po' questo il suo obiettivo polemico, diceva anche forse un po' bifo. Ma in realtà bifo, cioè ha detto una cosa molto saggia, cioè le strutture esistono. Sì, sì, no, ma però anche infatti quando tu dicevi, no, la questione del corpo, no? Tutta la medicina, no, è pensata, no, come pensa il corpo, un'unità ben strutturata, con delle gerarchie interne, quindi non mi viene in mente questo. È un dispositivo anche quello di sapere, di potere, beh, poi nella danza succederà altrettanto, così come in tutti gli altri campi disciplinari, quindi si inventa un concetto per rompere queste strutture, insomma, ecco. E il rizoma sarebbe il controcanto di questa faccenda qua, se ho capito bene, cioè dove ci sono, non c'è un principio d'ordine, ecco, in qualche modo. Io questo è quello che ho capito ascoltando, insomma, a spizzichi e bocconi questa conversazione e le altre, leggendo queste due paginette. E, no, però mi pongo un problema così dal punto di vista politico, perché, cioè, non so, quando fai politica hai bisogno di un nome, a volte hai bisogno di un nome, cioè, è tutto potere destituente in qualche modo questa cosa qua, ecco. Poi non so manco se il potere destituente senza un nome sia possibile, riesco a seguire, no, però No, poi dico, per la molteplicità è molto difficile, ecco, farci conti, poi quando è una faccenda, cose l'organizzazione, cioè mi sto spostando, però sono cose che su cui rifletto io più agevolmente, ecco, rispetto al piano che è stato affrontato adesso. Niente, però questo appunto, non c'è più l'albero perché è una struttura gerarchica e va bene, i saperi sono organizzati in quel modo, codificati in quel modo, quindi c'è il rizoma, c'è il corpo senza organi che è il massimo della spersonalizzazione, vabbè. Poi però una provocazione, c'è anche un carico di sofferenza, cioè nel senso, un corpo senza organi non è una cosa così, io non la liquiderei come un elemento così liberatorio. Cioè, credo che ci sia dietro anche un carico di... Non so, ecco, mi vengono in mente le cose che scriveva Sandro Mezzala sulla faccenda dei migranti, sulla questione, la percezione dell'identità di questi migranti, no? Di queste persone che vivono tra, in mezzo. Cioè, c'è anche un carico di sofferenza. C'è la capacità di rompere i nazionalismi, ma c'è anche un carico di sofferenza. Quindi, ecco, insomma, questo, ma sono cose che mi vengono così al volo. Una domanda, ma anche la tabula rasa, la tavoletta di sera, è un corpo, la tavoletta di sera aristotelica è un corpo senza organi? Quando la tavoletta di cera aristotelica? Quando è rasa? Magari sì, nel senso è un foglio bianco e... Sì. Cioè è un... Io penso che qui cioè, si non deve... conosco questa roba, però... Non lo cita in realtà De Vries quando racconta, quando parla di Bartleby, lo scrive appunto inutilmente perché ho letto l'anno scorso, sì. E parla della tavoletta di sera e di quando l'atto di inciderla, perché è informe, esatto. Tavola rasa, quindi è stata panificata perché non è che scrive solo sulla carta. E l'atto di scrivere è l'atto creativo, però a questo punto forse è anche un informe, perché appunto non ha un forma ancora, gli devi dare tu. Oh, è una domanda, Sì. Tipo, no? Anche la lavagna, cancellata. Esatto. Corpo senza organi. Tutto può essere. Principio di organizzazione. C'è un sopra, un sotto, sinistra, destra, eccetera. Arborescente rizomatico. Arborescente dice, l'altra volta avevamo fatto l'esempio, la storia del re, no? Mi ero inventato sta minchiata. C'è il re, allora. C'è il re qui e poi signori, e poi i contadini, e poi la terra. Così. Struttura piramidale, tutto rimanda a un principio e ogni principio rimanda a delle relazioni. Secondo lo strutturalismo queste relazioni sono costanti. Secondo invece il rizoma, queste relazioni esistono, però non sono costanti, cioè non è necessario che si sviluppi così. Ci sono dei precisi momenti storici, cioè dei rapporti di potere, dei rapporti di forza, che determinano il verificarsi nel campo aperto di determinate strutture che poi intercettano, tanto è difficile scrivere alla lavagna, intercettano tutte le linee e formano dei piani di consistenza, cioè contraggono le materie e danno una forma, danno un ordine. A un certo punto con lo strutturalismo si era detto l'ordine è punto e tutto è determinato dall'ordine che viene prima delle parti. Invece con rizoma si dice che gli ordini appunto si creano, però non sono necessari, non sono eterni, sono contingenti, eccetera. E via. Scusate, ma io devo andare. Ciao. Ma e poi non so se avete letto i punti. Oh, se avete già parlato, no? Quei quattro punti che caratterizzano il modello, insomma, se l'avete già fatto. No, ma forse perché lui è arrivato dopo. Sì, sono arrivato tardissimo. Cioè, a domani che volendo voglio intervenire. Poi devi parlare. Già c'è questo. Ciao. Ciao. Vai, sentiamo. Ciao. È stato un troppo contagio di uno di modo sempre letto. Sì. Poi ci sentite? Sì. Bella, noi volevamo intervenire sulla questione, ne abbiamo un po' parlato adesso, sulla questione del corpo senza organi. Abbiamo qualche difficoltà a percepire tutto quello che dite perché sentono rumori strani, però vabbè, abbiamo subito il vostro ragionamento e come va? Cioè, la nostra interpretazione di quel passaggio lì è sostanzialmente che in questo caso, come si diceva l'altra volta, viene preso la questione dei concatenamenti, delle serie, della struttura per cercare di delineare una nuova forma, nel senso che, come veniva detto prima, non c'è l'obiettivo di dire noi stiamo andando là, noi vogliamo definire questo o quest'altro, però comunque c'è un tentativo di formalizzare un nuovo concetto, un nuovo immaginario, che appunto è quello di rizoma. Noi quello di rizoma l'abbiamo letto come all'interno di una struttura presa come un qualcosa di piramidale, quindi che ha una divisione interna, una funzionalità, un centro da cui si dirama l'ordine, appunto, come detto prima, e a partire da qua esistono delle serie, dei concatenamenti che fuoriescono e che prendono forma in una nuova forma, scusate se per la ripetizione non mi viene una parola più adeguata, che è appunto rizoma, cioè una struttura in sé che non ha quella differenziazione funzionale interna. Perché ad esempio, come si viene detto un po' più avanti, tutti i punti che compongono il rizoma sono interconnessi tra loro. Non c'è più un epicentro attraverso il quale passa l'informazione, non c'è uno smistamento e non c'è neanche una divisione funzionale all'interno dell'organismo. Ed è per questo che secondo noi qua parla di un corpo senza organi. Perché sta cercando di definire una nuova struttura che non ha più quella divisione classica, ad esempio, della radice. Perché la metafora della radice per noi è centrale. perché definisce proprio la strutturalità e i vari livelli che la compongono. E in questo senso quello che ci incuriosiva di più era appunto il funzionamento di un sistema che è indifferenziato al proprio interno, dove sembra quasi che l'accento venga posto sulla relazione, sullo scambio, sulla connessione che c'è tra tutte le sue parti. A questo punto ci sembrava interessante la metafora che fa quella delle api. L'idea. Che non è l'ape in sé il rizoma, non è l'orchidea in sé il rizoma, ma è l'unione di queste due che dà vita a un qualcosa di nuovo, a un qualcosa di diverso. E c'è un'ultima cosa che invece questa non so se ne abbiamo discusso abbastanza, non siamo riusciti a dirci tanto, che vi poniamo anche, è alla fine il rizoma non rischia di essere un sistema autopoietico, nel senso un sistema che si produce, riproduce, si autogenera, si autoalimenta e si sorregge da solo per andare dove? Perché poi il problema è questo, se ci offrono un immaginario differente, ben venga, ma perché? Cioè, dove stiamo puntando? Sì, rispondo al volo, mi senti? Sì, sì. Ok. D'accordissimo sull'autopoiesi, dove stiamo andando non si sa, appunto non c'è uno scopo, cioè rizoma non è un piano, un piano nel senso un progetto, cioè rizoma è come avvengono le cose avvengono in maniera rizomatica, ci sono dei rapporti di potere che sviluppano dei nodi arborescenti o radici che si sviluppano in un certo modo, ma d'altra parte c'è un rizoma di connessioni e di elementi eterogenei, e quindi le cose succedono. Cioè, io la leggo così. Poi secondo me non è insensato parlare del rizoma, cioè ha un significato, ha una direzione, che forse è molto generale, molto astratta, però cioè, mi sembra che parlando del rizoma, del corpo senza organi, viene costituito l'insieme delle condizioni di possibilità che ti danno il potere di decidere, perché è questo il punto, cioè di decidere anche in modo indipendente. Cioè parlare del rizoma significa, per quel che penso, dire che è possibile decidere all'interno di strutture differenti. Cioè, se non parli del rizoma, non puoi neanche pensare a strutture differenti, non puoi uscire dal campo nel quale di fatto sei prigioniero e poi, se vuoi, può essere la cultura borghese, tutto quello, cioè, la conoscenza con la C maiuscola di cui parlavamo prima. Cioè, questo è il senso, secondo me, del rizoma. Non so se vi parla. Sì, sì, avete risposto. Siamo soddisfatti. Io non so. Poi secondo me, cioè, essendo appunto un sistema autopoietico, non può che andare anche verso se stesso. Cioè, nel senso, visto che vuole produrre se stesso, quindi insomma, se c'è una direzione, è l'autoproduzione di sé. Quindi, allo stesso tempo, l'autoaffermazione continua di questa esperienza rizomatica del piano, no? E niente, cioè, come un piano di immanenza che ci ha appena annunciato Deleuze. Su mille piani, come ci dice anche Artaud, cioè, esclude ogni principio trascendente, quindi non può andare oltre se stesso, no? Cioè, se siamo nell'immanenza è normale che questa potenza affermi continuamente sé e si autoproduca, non va da nessuna parte, va verso sé, in modi differenti, continuamente, però sempre se verso questa consistenza che non può andare oltre se stessa. Cioè, può essere anche un discorso, come dire, di ripiegamento su se stessi, una cosa del genere, che non vede alcun altro di là fuori di sé, però allo stesso tempo Mi sembra anche che affermi un'autonomia del piano, questa cosa. Beh no, secondo me questo, diciamo, questo rischio non c'è, nel senso che il rizoma è proprio quello che si forma con, quando la struttura, gli strati formati da struttura si concatenano con il fuori, no? Questo discorso del fuori, no? Che crea il rizoma, quando dalle radici, cioè, i rizomi si formano all'interno delle strutture arborescenti e nelle strutture rizomatiche si creano strutture arborescenti, no? Cioè non si possono vedere come due dimensioni staccate, non c'è il rizoma e l'albero, ci sono sistemi in cui il rizoma si sviluppa dentro le strutture arborescenti e rischi di geratizzazione, di stratificazione dei rizomi stessi, e quando gli strati cominciano a essere dissolti, no? Nel concatenamento col fuori che si crea rizoma, quindi è un processo, è più su un piano di, come dire, su un movimento che su un, ecco perché c'è anche la differenza tra calco e carta, non nel testo. Una struttura, un albero è sempre un calco, no? Qualcosa che ferma e mobilizza, no? Un processo. Il rizoma è invece proprio il dispiegamento di linee, di possibilità di questo processo sempre rapportate al fuori, mai come ripiegamento su se stesso. È il calco che si piega, la carta si sviluppa. In questo senso non c'è un rischio, come dire, di, no? Scusa, può essere un fuori che è dentro. Esatto. Nel senso che appunto questo togliere un significato che c'hai, ma magari non ti appartiene, sì, di divenire un significato che sei, trovando un fuori che però non è più dentro. Sì. Va bene. Dentro dove? Beh, se ragioniamo in termini collettivi, è un designificare ciò che, un significato che ti hanno dato. Prima che c'era quel pezzo bello che hai letto te, però adesso non so se lo trovo più, ma poi... Vuoi il pezzo? Quel pezzo che stavi leggendo tu, lo diceva proprio in due righe e diceva... ma è anche volto verso il corpo senza organi che continua a disfare l'organismo, e quindi questo organismo che è ciò che sei, se parliamo sia in termini collettivi che in termini soggettivi, questo organismo che è ciò che ti dicono che sei, tu lo disfi, e quindi lo disfi muovendoti verso un fuori e a far passare circolare particelle a significante intensità pure, quindi un concatenamento con una cosa che ti porta verso delle intensità che tu non hai pensato che sono fuori, ma che ti risuonano con delle intensità, appunto. Poi appunto, come diceva Anto, stiamo sempre ragionando su una stessa cosa in un certo senso, che pare un processo destituente che ti fa significare le tante cose. Taccio, mi sto aggrovigliando, però io capisco quello che più o meno sia quello che hai detto tu, che perché cioè io più che di un fuori, io parlerei di un altrove. Mi dentro quando le trovo, cioè faccio fatica proprio a tenerle insieme all'interno di questo discorso, le categorie del dentro e fuori. Però cerchiamo, cioè, per esempio, non voglio banalizzare, però visto che questa, diciamo, questo testo si può leggere appunto a vari livelli, rizoma è un rizoma letterario, un rizoma anche politico, no? Proviamo a pensare, diciamo, cosa significa fare rizoma dentro un'organizzazione politica, che forse è un piano, no? Che conosciamo bene, l'abbiamo attraversato un po' tutti, così. Cioè l'organizzazione politica è quella che definisce, no? Dei ruoli, delle leadership, dove si formano, siamo il partito. Qual è il fuori dell'organizzazione politica? È quello che, diciamo, è con un lessico, come dire, un po' desueto potremmo chiamare la società civile, oppure il fuori dell'organizzazione politica è il movimento. Il concetto di movimento non è il nome, insomma, è stato abusato, adesso c'è il movimento, sembra anche un altro nome dell'organizzazione politica, però proprio l'idea di movimento è quello che nega in qualche modo l'organizzazione, la staticità del corpo politico. Il corpo politico è un corpo molto ben formato, molto organizzato, che ha delle, appunto, strutture di comando, no? E chi svolge dei compiti molto ben precisi. Quando questo corpo politico, pensiamo che cosa succede quando le organizzazioni politiche incontrano i movimenti, i momenti, diciamo, di contestazione, pensiamo ai grandi movimenti di contestazione del Novecento, esplodono, cioè in qualche modo non reggono più al colpo, sono aperti verso il fuori, cominciano a far fluire tutta una serie di, no, desideri, idee, istanze represse dentro l'organizzazione, si connettono col fuori e si crea il movimento. E quello è un movimento rizomatico. Ma dentro quel movimento i rischi di riorganizzazione, riterritorializzazione in altre leadership, in altri, diciamo, rischi di chiusura, no, li abbiamo tutti visti, li abbiamo conosciuti. Però, diciamo, io non terrei, appunto, da una parte c'è il rizoma, dall'altra la struttura. Sono due, come dire, processi che in qualche modo, no? Il problema è verso dove spingere, se c'è la possibilità intenzionale di optare per l'uno o l'altro di questi modelli. Però sono, cioè, non ti liberi della struttura, diciamo, io sono nel corpo senza organi, no? Cioè, non c'è questa possibilità. Ma no, Deleuze e Guattari non pongono questo processo, non, esatto, più che un... Però io, appunto, leggendola su un piano propriamente politico, la vedo così. Poi sarà anche un rischio di semplificazione, però. Vai, lo dico, posso leggere? Vai, collegamento alla Padova. Ciao, mi sentite? Sì, sì, vai. La mia era una domanda, mezzo intervento, non lo so, non ho ben capito. Cioè, io mi sono perso, come vi dissi già l'altra volta, il primo intervento, quello che ha fatto Dico, probabilmente quello che è stato anche l'intervento un po' più di che ha dato più una linea generale a tutta la nostra, a questa lettura che stiamo facendo insieme, state facendo e stiamo facendo anche noi da lontano. Solo che cercherei anche un pochettino di, cioè, abbiamo parlato tutto il tempo di rizoma senza capire bene forse in che punto strategico, storico viene scritto e viene prodotto Mille Piani, cioè nel senso nel 79 per la prima volta iniziamo a sentire parlare di neoliberismo probabilmente, cioè nel senso con le analisi di Foucault che può fare con l'Est de France, con nascita della biopolitica, l'anno dopo compare Mille Piani. Cioè, nel senso, penso che si possa leggere questo testo qui e anche tutto il discorso rizomatico sempre all'interno di questa lettura un pochettino storico-politica, possiamo definirla così. Cioè, nel senso, già chiesi l'altra volta a voi se secondo era una lettura quella che stiamo facendo, cioè almeno che sto facendo io in questo momento, più post-operaista, o se anche questa cosa qui del rizoma come rapporto, come forma di dittatura, diciamo, che il capitale come compie possa essere. Io non immagino il rizoma altrimenti se non come l'individuo all'interno del sistema capitale neoliberale, cioè nel senso capitalistica neoliberale, cioè. Anche, chiedo anche a voi se può essere letto in questo modo anche tutto questo discorso qui o meno, cioè nel senso quanto sia lettura delesiana o quanto questo creista anche questo. No, scusa, se puoi specificare meglio questa cosa, l'individuo all'interno del sistema neoliberale. Cioè, nel senso, se da quel poco che ho capito, cioè, il rizoma è un rapporto. Cioè, nel senso, è il... Se abbiamo ben, cioè, almeno nella definizione di creazione di valore all'interno del sistema neoliberale, più che sul sistema fabbrica e sistema metropoli, quindi sistemi di rapporti che vengono sussunti, diciamo. Ecco perché il rizoma ce lo leggo come individuo all'interno del discorso neoliberale. L'uomo economico, no, l'uomo, non mi ricordo più come lo definisce Foucault nei termini, nascita della biopolitica, ma contemporaneamente, cioè, tutta la prima parte di rizoma di questa introduzione qui, cioè, è su questo lavoro qui, sul lavoro di un nuovo sistema di produzione e di anche, diciamo, forse di rapporto. Cioè, provo a trovare anche la pagina, sono a pagina 52, quando cita Chomsky. Cita Chomsky. Cioè, nel senso, ho letto tutto questo discorso qui proprio come un discorso post-sovranista, cioè tutto ancorato al discorso di tagliare la testa al re anche nella teoria. Cioè, non so se possa essere letto anche in questo modo qua, cioè, chiedo. E tu? Direi di sì. No, beh, no. Ma così è, sempre delle impressioni, non è che... cioè, le butto lì, sto proprio parlando senza ragionarci, quindi... e anche senza sapere le cose, quindi prendetele così come stanno. Ma allora, come dire, il rizoma può essere un modello del capitalismo? Sì. Però come diceva Francesco, cioè il rizoma non è l'opposto della radice o dell'albero, ci sono sempre dei momenti di riterritorializzazione e così via. Però tu appunto utilizzavi una parola, cioè, che è molto, che ha un peso individuo, cioè appunto poi c'è una riterritorializzazione molto forte, l'homo economicus è un individuo, c'è la proprietà ad un certo punto. Per quanto poi si debba lasciare gli spiriti liberi e capaci di produrre, creativi e così via, poi c'è sempre un principio d'ordine che a un certo punto interviene, che è quello dell'individuo e della concorrenza. Cioè, io l'ho un po' letta così perché anche in questo libro, no, l'abbiamo presentato, c'è lì anche tu quello lì, no, La nuova ragione del mondo. Anche lì si fa tutto un discorso, cioè il neoliberismo per esempio rispetto al welfare fordista e statalista faceva un discorso assolutamente, cioè, all'avanguardia, no? Questi già negli anni 40 lo facevano e dicevano appunto che era iperburocratizzato e così via, cose che poi sono state dette anche dai movimenti, però poi lì non c'è il comune, che magari può essere anche un modo per dire zoma, no? Dove il gioco, diciamo, dell'identità, delle molteplicità e delle il piano del gioco delle molteplicità e delle differenze, ecco, non c'è questa roba qua, c'è invece il principio dell'individuo e della proprietà privata, cioè quindi anche il welfare è pensato in funzione della responsabilità, per fare degli esempi concreti, la responsabilità individuale e così via. Io l'ho letto un po' così, non so se mi sono spiegato. Pronto? Sì? No, ecco. Sì, no, cioè riesco a capire, cioè, mi sfugge qualcosa probabilmente sulla lettura, cioè nel senso non che non sia contrario, cioè non condivida quello che stai dicendo, probabilmente non l'ho letto sufficientemente bene. No, ma che ho manco letto. Cioè, però mi sembra che sia entrato in quello che diceva Mezzadra l'altra volta, in un nuovo paradigma quasi antropologico, quando si legge Mille piani. Siamo entrati in un nuovo paradigma di lettura rispetto al discorso sovranista. Quello che dice da Doe Laval è che siamo entrati, cioè, nel senso, mi sembra che dicano siamo entrati in un sistema antropologico, non so, dire ontologico mi sembrerebbe eccessivo. Io mi baso sulle parole di Mezzadra che ha detto la settimana scorsa. Ecco perché penso che, cioè, su che piano vada, cioè forse su che piano vada letto storico-politicamente questo testo qui. No, volevo chiedere una cosa se qualcuno mi può rispondere. Cioè, i mille piani, siccome io, cioè, purtroppo è la prima volta che vengo, non ho avuto modo di leggere il libro. Cioè, da quant'è che si può parlare di mille piani? Cioè, storicamente, a che punto? Perché qui volevo capire questo per rispondere a altre ragazze che non hanno parlato. Io? No, no. In che senso? Cioè, i mille piani, cioè, da quando è che ne parliamo? Da, non so, a che punto della nostra cultura si situano? Cioè, da quando è che possiamo parlare di mille piani? Cioè, non solo del libro? Cioè, sì, nel senso, sì, cioè, sarà un punto di vista per leggere la società, però sarà anche una società che andiamo a analizzare, che sicuramente, non so, se parliamo del, boh, metà dell'Ottocento, probabilmente ancora non se ne poteva parlare. Cioè, da quando è che possiamo parlare di mille piani? Perché secondo me, cioè, l'idea che ho io è che non si possa fare un discorso solo sul liberismo, cioè, è molto più che un discorso politico, cioè, è un discorso culturale, cioè, e non va indietro. Cioè, io sto studiando queste tematiche rispetto a un altro filosofo che è precedente, che si chiama Georg Simmel. E cioè, le conclusioni lì, cioè, sfociano praticamente quasi nel tragico, nel senso che cioè, anche quando parliamo di individuo, di cultura, di che cos'è cultura soggettiva, cioè, se parliamo di intersecazione con questi mille piani, in realtà la possibilità di una cultura soggettiva non c'è, perché l'individuo non può farsi carico di questi mille piani, quindi deve trovare delle alternative per potersi affermare, per poter produrre qualcosa, ma in realtà anche la produzione in sé, cioè, è proprio un tipo di cultura intesa in maniera romantica che non ha più modo di esistere adesso. Quindi è per quello che dico che non si può fare un discorso, cioè, liberismo, non liberismo. Poi io sì, parlo anche da profana per certe cose, però cioè, è difficile tornare indietro, nel senso, nel tipo di società in cui viviamo. Non, allora, se posso, cioè, nel senso, torniamo alle caverne, ma come si fa? Cioè, diventa un punto di vista proprio culturale, cioè della distanza che abbiamo da tutto ormai e dell'essere tutto sempre più collegato e non potercene appropriare. Ma è quello il senso. Ecco, allora io vorrei dire una cosa su quest'ultimo intervento e su quello di Padova, e cioè che, allora, rizoma in sé è una questione di modello e non di contenuti. E questo significa che si può applicare il modello a dei contenuti politici, a dei contenuti artistici, culturali, eccetera, eccetera, e funziona sempre, punto uno. Punto due, come è stato detto, il rizoma non si oppone alla struttura, ma il rizoma contiene all'interno di sé le strutture e è un modello un po' diverso perché ci fa capire, ripeto, questa la dico sempre, ma secondo me è fondamentale, cioè che le strutture appunto non sono simboliche ma sono storiche, che il potere non è simbolico ma è reale, e il potere come istanza di determinazione. L'altra volta si è toccato il tema della produzione di soggettività, che adesso funziona molto, e alla fine nasce da lì, cioè produzione di soggettività significa un potere innestato direttamente all'interno della persona che fa in modo che la persona si sviluppi all'interno di quelle categorie. Insomma, categoria molare classica, maschio, bianco, occidentale, borghese, eccetera. E dopodiché sul discorso storico in sé, Mille Piani esce nell'80, è anticipato da un libro che probabilmente potrebbe essere Un piano dei mille, che è Kafka, che è un libro fighissimo. Il senso di Mille Piani, del titolo, per come la leggo io, è un gioco. In semiotica si direbbe fra metalinguaggio e linguaggio oggetto, cioè un contenuto può essere descritto, cioè la spiegazione di un contenuto, diciamo, mette in scena la produzione di un altro contenuto, la spiegazione del quale mette in scena la produzione di un altro contenuto e all'infinito. E quindi ogni piano oggetto ha un piano meta che spiega questo piano, che ha un piano meta che spiega questo piano all'infinito. 1, 2. Questi piani sono collegabili tra loro secondo dei rapporti contingenti irriducibili, nel senso non puoi ridurre il tutto a una regola, a un funziona così, perché dipende, e dipende da una molteplicità infinita di fattori, e quindi fondamentalmente i fenomeni accadono e noi li leggiamo, li possiamo leggere attraverso un modello rizomatico che è il modello che consente di tenere insieme, cioè non tenere insieme per fare la sintesi, ma poter pensare la molteplicità senza ridurla a delle costanti o senza ridurla a dei piani di consistenza, scusate se uso di nuovo il lessico. E sull'individuo, ecco, io appunto, è stato citato Foucault, come dire, io tenderei a pensare l'individuo come un prodotto storico, sociale e culturale, nel senso, cioè, a un certo punto si è cominciato a produrre degli individui, cioè si è cominciato a produrre una società composta di individui, ma questi individui di fatto, cioè io per esempio, sono un individuo a livello giuridico eccetera, però in realtà, ragionando rizomaticamente, sono una contrazione, sono un'esistenza, una continuità esistenziale che contrae in sé una serie di stimoli, di linee, di particelle molecolari che provengono da un sacco di cose: la mia famiglia, i miei amici, la scuola, l'università, il lavoro e tutto, insomma. E in sostanza, cioè, l'individuo non è che vive la sua vita da individuo sempre, l'individuo è un qualcosa che si fa, che accade in alcuni momenti della vita della persona, della vita di questa continuità esistenziale, e che poi è molarizzato da certe strutture che differenziano in realtà questo accadere plurale, ecco, diciamo così. Ma perché io non so se sbaglio, ma a me sembra che il rizoma sia un modello ontologico, cioè, no? Per me, boh, argomento. Posso provare a dire la mia? Vai, vai. Non lo so, buttata lì, perché volevo sentire, non sono sicuro di poter argomentare sulla questione, anzi, l'ho detto proprio perché volevo sapere che cosa ne pensate. Io concordo con l'ultima cosa che è stata detta del modello ontologico, perché infatti si parla di rizoma come modello, non come modello da replicare, ma come modello che viene a formarsi, ad esempio quando si parla di desiderio, il desiderio viene prodotto nel rizoma, oppure il desiderio prende la forma del rizoma, e dice a pagina 19 ad esempio: il rizoma opera sul desiderio per spinte esteriori e produttrici. Mi sembra che qua un cambiamento ontologico, appunto, della forma, cioè non è più concatenamento, radice, cose così, ma è una forma nuova, nuova che dà espressione di sé attraverso, ad esempio, l'esteriorizzazione del desiderio. La cosa che mi lascia un attimino perplessa è la questione è legata invece alla riproduzione di esso, nel senso che la struttura cerca di, sul piano della consistenza, cerca di selezionarlo, definirlo, di strutturarlo, e quindi lo snatura, perché lo reintroduce all'interno di sé. E invece dall'altro lato mi sembra che quasi la struttura riconosca un valore adesso, se posso inglobarlo, e nell'inglobarlo attraverso la forma del calco, per esempio, lo neutralizza, citando una parola brasiliana, e per questo secondo me sì, ha senso la questione del cambio ontologico su di esso. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso e che volevo chiedervi era che il rizoma non sia oggetto di riproduzione, Perché mi sembra che da un lato ci sia un riconoscimento del valore del dono in sé, però dall'altro comunque deve essere neutralizzato, e neutralizzandolo ovviamente sappiamo che viene cancellato, viene inglobato, viene fatto proprio dalla struttura. Il rizoma non è soggetto di riproduzione perché non è, di fatto non può essere un, non può funzionare come un principio ontologico, ma è un principio di connessione. Cioè l'ontologia no, tira in ballo un po', no? L'essere il soggetto. Il rizoma invece è proprio quello che lo fa in qualche modo fluire, uscire fuori, no? Quindi al principio un principio ontologico della, lo dice appunto nelle proprio pagine finali, del verbo essere, il rizoma oppone il principio della e-congiunzione, no? Si fa rizoma quando si cominciano a produrre delle serie, no? Di cioè unite dalla congiunzione e, non invece dal predicato essere, che un po' blocca queste linee sul calco del soggetto, dell'ontologia, della metafisica, eccetera, eccetera. È proprio da questo modello che il rizoma cerca di uscire. In questo senso non può essere, secondo me, ma voglio dire, da questo punto di vista mi pare abbastanza chiaro, considerato la fondazione di una nuova ontologia. Quanto, sì. Di supporto a quest'ultimo è già stato citato ampiamente logica del senso. Adesso mi vengono in mente al volo la serie sul divenire e basta quella. Cioè, insomma, il discorso dei verbi e delle parole, il verbo del divenire e la parola che invece contrae un insieme di significati. Ok, detto quindi l'ultima parte di rizoma, cioè okay, quello che non l'ho detto. Scusa, la domanda. Ma il corpo senza organi è il corpo senza organi? Nel senso di è come essere il corpo senza organi? Io gliela farei riformulare. Come hai detto c'è un inganno con la differenza? No, che non ce la faccio. Cioè. E che sei per me? No, siccome lui ha detto che non può esserci una specie di normatività dell'essere come una nuova ontologia. Cioè, no, non fonda un'ontologia, cioè non possiamo parlare di un soggetto, no? di un essere del rizoma. Perché appunto all'essere e a tutto quello che diciamo l'ontologia tira in ballo, no? Come nella storia della filosofia, diciamo, loro oppongono un concetto diverso è quello di differenza, che un po' rompe diciamo questo tipo di impostazione. Quindi il rizoma in qualche modo non può, cioè non ha come obiettivo quello di, no, formare una nuova, come dire, filosofia del soggetto, ma proprio di destrutturare quella che poi vuol dire, il rischio è sempre quello del calco su questo piano di questa fuoriuscita su questo. Allora, perché io intendevo il corpo senza organi, il senza organi come un assorbimento della differenza dell'organo all'interno di questa specie, non vorrei dire unità, perché poi appunto l'unità per esempio cioè, è quel ciò che differenzia da ciò che non è uno, no? Quindi cioè, la differenza dell'organo assorbita nella, fammelo dire allora, unità del corpo, senza organi però. Cioè se c'è questa. Come dire, questa volontà di fare esplodere la differenza però sempre all'interno dell'unità corpo, cioè, poi il corpo diventa corpo ma senza differenza dell'organo. Sì, se il corpo è il piano vuoto, la lavagna, esatto. La tavoletta d'argilla su cui appunto le intensità circolano. No, e poi cioè, secondo me è una immagine molto bella, forse diciamo. Poi vuol dire, secondo me Rizoma va letto anche come testo letterario, perché secondo me ha una potenzialità espressiva incredibile, al di là ecco, diciamo, del valore filosofico. Cioè proprio quello del punto della linea, cioè l'ontologia, le strutture funzionano per punti. Punti dentro un'antropologia che sono comunque, no, collegati da rapporti di un qualche. Nel momento in cui questi punti vengono diciamo, visti in una dimensione di, come dire, in velocità, no? Come si trasformano in linee, si mettono, cioè diventano linee, non perdono la loro dimensione di, no, elementi fermi in una struttura per mettersi a fare qualcos'altro, si connettono a qualcos'altro che è il fuori della struttura. E il piano su cui queste linee si, no, in qualche modo si intrecciano, si coniugano, è il piano di consistenza, il corpo senza organi. Ma non è un, cioè, non è un soggetto, non può diventare un soggetto, cioè il nuovo modello della metafisica deleuziana. Non c'è questa possibilità, secondo me. Però scusami, ma la differenza, cioè la differenziazione non è una costante, non è un principio di unità. Cioè su. Sì, direi se dobbiamo identificare per forza una costante, questa è la variazione. Qui sì, la differenziazione. Quindi c'è unità nella differenza. Cioè questo è quello che. Per quello che io capisco molto. Ah, ok. Boh, sì, se vogliamo, sì. Cioè, diciamo, c'è un sistema, ad esempio, il pianeta Terra. Scusa, questo se no non capisco, perché se no non capisco. Sì, cioè non riesco a, cioè non capisco su quali basi se non giustificare l'affermazione della differenza, cioè cioè di fatto lui sembra farlo, cioè anche se non lo dice, però lo fa, cioè affermando la differenza afferma che c'è solo differenza, dunque che c'è unità nella differenza. Scusa, no, la ripetizione della differenza è una differenza, no? Io vorrei introdurre magari un altro termine che è empirismo, che forse insomma chiarifica un po', cioè empirismo, questo è un termine più deleuziano che guattariano, che significa, cioè le cose accadono, insomma leggere la cosa, insomma prima c'è l'evento e poi c'è la spiegazione dell'evento, ecco. E il rizoma è un principio di empirismo. È un'ontologia, sì e no, nel senso, cioè appunto per come lo vedo io, il rizoma è sempre un sistema di metalinguaggio all'interno del quale accadono i contenuti. In questo senso si può fare un'ontologia rizomatica, ma non si può fare un rizoma ontologico. Ok? Oh sì sì, ho capito. Cioè il rizoma non è che esiste, non è che è. Però noi possiamo pensare le cose attraverso il rizoma, che è un modello che consente di pensare l'accadere della differenza, cioè l'accadere della molteplicità. Ecco, diciamo così. E empirismo, secondo me, ecco, magari è un tema da approfondire, perché è proprio questo il punto, insomma. Sì, infatti. Volevo, scusa, richiederti però che cosa empirismo, che cosa significa, che cosa intendi, perché l'ho proprio perso quello che hai detto prima. Ah, empirismo, appunto, che non dai una chiave di lettura, carta e calco, no? Cioè non dai una chiave di lettura preconcetta o predisposta o prestrutturata ai fenomeni che accadono, agli eventi, ma assumi l'evento e poi ti fai un'idea, cioè e poi lo spieghi. Il che significa? Principio di cartografia. Gli eventi accadono, chiaramente si rapportano tra loro, ci sono delle congiunzioni e disgiunzioni. La carta è principio empirico perché a partire dagli eventi riesce a rendere quello che poi diviene. Adesso non lo ritroverò mai, però c'è una cosa, mi sembra sia nel capitolo sul divenire, vabbè, insomma, io faccio lo schema qui, che è A, E, B, e sottolineo la E, ci faccio una linea. Cioè gli elementi si congiungono. Dalla congiunzione degli elementi nasce un nuovo elemento. E questo è un po' il principio, cioè il principio di differenziazione letto dall'empirismo. E il rizoma ti tiene, cioè il discorso empirista. Io vorrei smettere di parlare però in generale, sto parlando troppo. Ah, sono le 9 però. Ma per la prossima volta che dobbiamo fare? I compiti. Studiare la pagina. La pagina. Padova che dice? Padovani? Vi confessiamo che ci siamo persi in una corretta mica tutta interna. Non insomma. Sì, c'è qua uno scontro antropologico di cui ripetere. State pazienza. Ma che le facce dei padovani? Quanti sono? 3, 4, 3. Come c'è? Come c'è? Ho pensato proprio un pacco davanti alla web. Guarda, siamo molteplicità. Vabbè, oh, ci diamo un'organizzazione, un minimo di... perché sennò qui... Lo spunto perché veramente ci siamo passati un po' un secondo. Vabbè, ci abbiamo 15 minuti. Allora, io ho una proposta, cioè in realtà mi è arrivata. Pensavo si dicesse semiologo, ma in realtà scoppato che si dice semiologo. No, c'è questo ricercatore dell'Unipo, che si chiama? Montanari. Esatto, lui. Io insomma ero interessato proprio alla faccenda e lui potrebbe venire e farci, se ci interessa, insomma, ovviamente così un incontro su immanenza e espressione. Ah, figata. Non so che cosa voglio dire, ma immanenza ed espressione, sì. C'è anche delle cose che ha scritto, magari me le faccio mandare e le pubblichiamo sul blog. Però non so se è il caso di farlo subito, di spostarlo più avanti, insomma, dipende anche da come procediamo noi con la lettura. Qui c'è anche il metodo a noi, cioè, quello è il punto. Scusate, sarà una proposta per noi, ne abbiamo capito solo metà. Mandateci due righe scritte, così ne parliamo di mail. Sarà questa la proposta. No, la proposta è di un incontro con un tizio sul tema immanenza e espressione. Però non ne so altro. Due parole. Sì, cioè, ovviamente ci interessa. No, però appunto, no, ma al di là dell'incontro, che vabbè, sarà interessante capire come collocarlo nel percorso di lettura, cioè non so se è il caso di farlo adesso oppure di continuare, insomma. Possiamo leggere sull'immanenza, che è piccolino, che cos'è l'immanenza. Ma perché secondo me ha molto a che vedere la questione dell'immanenza e l'espressione con quello che diceva lei su questo altrove che è dentro. No, un tema, cioè scusami, fuori, no, vabbè, non ricordo. Era solo questo, però credo che sia più urgente la faccenda di capire come si procede. Posso dire una cosa che non c'entra nulla? Ascoltando oggi mi viene in mente che le premesse a cui, le conclusioni a cui arriva questo testo, cioè tutto il 77, quegli anni lì che poi producono questo testo, siano le premesse da cui nasce uno spazio come questo in cui stiamo. E quindi, cioè, perché nasce dopo, temporalmente, quindi questa roba qua, anche se non abbiamo letto pagina per pagina, è parte costitutiva della cultura che porta questo spazio a esistere, per esempio. Quindi molte delle cose che loro tentavano di dire sono parte di una pratica quotidiana con cui che tentiamo di... il movimento ha tentato di produrre. In questo senso a me torna, cioè, perché sento che stiamo tentando di dire delle cose, il linguaggio consente di dirle e nel contempo Ogni tanto sembra che stiamo tentando di dirle ma non ci vengono bene e mi tornano in mente due cose. Quando Bifo parlava, non è più il tempo della metafora ma è il tempo della... non mi viene la parola che ha usato, comunque era del divenire corpo dei concetti che si producono. Metamorfo. E poi l'altra cosa che diceva è questo testo è stato preso come una proposta, questa frase famosa con cui ha aperto, questo testo è stato preso come una proposta e questo ha eliminato ogni possibilità di soggettivazione autonoma da quando è uscito in fuori. E quindi, non lo so, ma ho paura, cioè, quando tu dici ontologico, è un po' questa roba qua, cioè, quando tu dici è un metodo e non è un contenuto, è una modalità relazionale che esce quindi dallo stato centralista, che esce da tutta quella roba lì, e però mi sembra come se stiamo cercando un contenuto che però di fatto appunto è nelle premesse dell'esistenza di questo spazio e che quindi ci lascia un pochino con le stesse domande con cui eravamo... Esatto, ecco.